Parigi, 20 maggio 1804, primo pratile dell'anno dodicesimo. Sua Altezza Reale la principessa Giuseppe, annunziò Fernando. E tutta frusciante entrò mia sorella Giulia. Signora marescialla, come avete trascorso la notte? Disse Giulia. Gli angoli delle labbra le tremavano. Piangeva o rideva? Tante grazie, magnificamente, Altezza Imperiale, risposi io e mi inchinai a terra. Proprio come a suo tempo avevo imparato da Monsieur Montel. Sono venuta apposta un po' prima, così potremo ancora starcene un poco sedute in giardino, disse mia sorella, Sua Altezza Imperiale, Principessa dei Francesi. Giulia pulì accuratamente col suo fazzoletto la panca del giardino, prima di sedervi col suo abito di raso turchino. Solenni ondeggiavano intanto le piume di struzzo azzurre sui suoi capelli. Maria ci portò della limonata e osservò con aria critica Giulia. L'Altezza Imperiale dovrebbe darsi un po' di rossetto, osservò. La marescialla ha un aspetto molto migliore. Giulia buttò la testa indietro, stizzita. La marescialla ha anche meno preoccupazioni. Io invece ho tanti pensieri per il grande trasloco. Andiamo ad abitare a Palazzo Lussemburgo, Maria. Ah, la bella villa di Rue du Rocher non sembra più abbastanza bella alla principessa Giulia, osservò Maria caustica. Ma no, Maria, scongiurò Giulia, tu sei ingiusta. Io non posso soffrire i castelli. È solo perché la coppia dei principi ereditari del trono di Francia deve sempre abitare a Palazzo Lussemburgo. Giulia, la componente femminile della coppia dei principi ereditari del trono di Francia, aveva un'aria quanto mai desolata, ma Maria non ebbe riguardi. Il povero Monsieur Clary non sarebbe contento di questo, per nulla contento, brontolò. Poi si piantò le mani sui fianchi. Papà, buon'anima, era repubblicano. Giulia si recò le mani alle tempie. Io non ci posso fare nulla. Lasciaci un po' sole, Maria, la pregai io. E appena Maria fu abbastanza lontana per non udirci, non dare retta a quella vecchia musona, Giulia. Ma non ci posso proprio fare nulla, piagnucolò Giulia. Traslocare non è un piacere, Dio lo sa. E tutte queste cerimonie mi rendono semplicemente infelice. Ieri alla nomina dei marescialli siamo rimasti in piedi 3 ore intere, filate, e quest'oggi sotto la cupola degli invalidi. Beh, là staremo sedute, la tranquillizzai in fretta. Bevi la tua limonata. La limonata aveva esattamente il gusto che avevano avuto i giorni passati. Era agrodolce. Dolci erano soltanto quei giorni perché da tutte le parti fummo inondati di felicitazioni. Il mio Giambattista è stato nominato maresciallo di Francia. La carica di maresciallo è il sogno di un soldato, sia egli recluta o generale. E ora questo sogno si è mutato in realtà per mio marito. Solo che le cose sono andate diversamente da come ce le eravamo immaginate. Poco dopo la mia visita notturna alle Tuilerie venne arrestato il capo realista Georges Cadoudal. Dopo l'esecuzione della condanna capitale contro il duca d'Enghien, nessuno nutriva più dubbi sull'esito del processo. Io ebbi tuttavia un timore enorme per Giambattista, quando improvvisamente il generale Moreau, il generale Pichegru e altri ufficiali risultarono implicati nella congiura di questo Cadoudal. E vennero arrestati. D'ora in ora aspettavamo la polizia di Stato. Invece, proprio come l'altra volta, Giambattista fu chiamato dal primo console alle Tuilerie. La nazione francese si è dichiarata per me. Voi non farete nulla contro la Repubblica. Io non ho mai fatto nulla contro la Repubblica e non potrei mai immaginarmi di farlo, rispose calmo Giambattista. Noi vi nomineremo maresciallo, dichiarò Napoleone. Giambattista non capiva. Noi? Domandò interdetto. Sì, noi, Napoleone I, imperatore dei francesi. Giambattista rimase senza parola. Napoleone rise tanto del suo stordimento che si batteva le mani sulle cosce e tutto allegro andava ballando intorno per la stanza. Il generale Moreau venne ritenuto colpevole di alto tradimento, ma non fu condannato a morte, bensì esiliato. Partì per l'America e intraprese il viaggio nella sua divisa di generale francese. Recava con sé la sciabola sulla quale, secondo il costume invalso tra gli ufficiali, aveva fatto incidere le date delle battaglie vittoriose alle quali aveva partecipato. L'ultima parola, accuratamente incisa, era Marengo. Poi gli avvenimenti precipitarono. Ieri l'altro il primo console si recò a caccia a Saint-Cloud. Là si fece sorprendere dal decreto del Senato che lo eleggeva imperatore dei francesi. Ieri, nella cornice di una sfarzosa parata militare, egli consegnò il bastone di maresciallo ai 18 più illustri generali dell'esercito francese. Già da una settimana Giambattista, in via strettamente confidenziale, era stato avvertito che doveva farsi fare dal sarto l'uniforme di maresciallo. Il figurino esatto di questa uniforme gli venne mandato dalle Tuilerie. Dopo la consegna del bastone, ciascuno dei nuovi marescialli pronunciò un breve discorso. Tutti e 18 si rivolsero a Napoleone chiamandolo Vostra Maestà. Durante i discorsi di Murat e di Massena, Napoleone teneva gli occhi semichiusi. Si vedeva quanto lo abbiano stancato queste ultime giornate, ma quando Giambattista prese la parola per rendere grazie della distinzione conferitagli, il volto di lui espresse un'improvvisa attenzione che alfine si tramutò in sorriso, in quel suo sorriso conquistatore e irresistibile. Si avvicinò a Giambattista, gli strinse la mano e lo esortò a considerarlo non soltanto l'imperatore, ma anche un amico. Giambattista rimase sull'attenti e non batté ciglio. A questa cerimonia solenne io assistetti da una speciale tribuna eretta per le mogli dei 18 marescialli. Giulia si trovava in un'altra tribuna, cioè nella tribuna della famiglia imperiale. Poiché un imperatore deve avere una nobile famiglia, Napoleone ha nominato i suoi fratelli, eccettuato naturalmente Luciano, principi imperiali e principesse imperiali le loro mogli. Giuseppe avrà titolo di principe ereditario fino a che Napoleone non abbia un figlio. Qualche difficoltà vi fu per la scelta del titolo di Madame Letizia. Napoleone non poteva chiamarla imperatrice madre, perché lei non fu mai imperatrice, ma è stata soltanto la moglie del piccolo causidico corso Carlo Bonaparte. Poiché tanto lui quanto i suoi fratelli, quando ne parlano, la chiamano quasi sempre la signora madre, si risolvette di presentarla alla nazione semplicemente come Madame Mère. D'altra parte, Madame Mère, signora madre, si trova sempre in Italia da Luciano. Ortensia, la moglie di Sua Altezza Imperiale il Principe Luigi dai piedi piatti, è diventata in forza del suo matrimonio principessa ed Eugenio de Beauharnais, il figlio di Sua Maestà l'Imperatrice Giuseppina, è stato lui pure nominato Altezza. Sebbene le sorelle di Napoleone si siano procurate nel termine di 24 ore degli abiti tutti ricamati di api, non c'era nel Moniteur alcuna notizia della loro nomina a principesse imperiali. Carolina, che dopo il colpo del 18 Brumaio ha sposato il generale Murat, sedeva durante la cerimonia accanto a me e come me è diventata la signora marescialla. Dopo la cerimonia, le nostre 18 coppie coniugali dei marescialli pranzarono con la famiglia imperiale alle Tuilerie. Le pareti, i tappeti, le tende erano ricamati ad api dorate. Molte centinaia di ricamatrici devono avere lavorato giorno e notte per condurre a termine questa decorazione. Da principio non riuscivo a spiegarmi che cosa mi ricordasse quel fregio dell'ape, ma quando mi mescerono champagne, e poi ancora champagne, e da ultimo mi parve che le api si capovolgessero, lo scoprii. Il giglio. L'ape di Napoleone è il giglio dei Borboni capovolto. Ciò non può essere una pura coincidenza, pensai. Come andrà a finire tutto questo? Dissi, senza volerlo, a Giulia sulla panca del nostro giardino. Oh, ma è appena incominciato, sussurrò Giulia e si permette una boccetta di profumo contro il naso. Non ti senti bene? Domandai spaventata. Non riesco più a dormire da quando è avvenuto tutto questo, confessò lei. Figurati, se davvero l'imperatore non avesse un figlio e Giuseppe ed io succedessimo. Incominciò di colpo a tremare per tutta la persona e mi buttò le braccia al collo. Oh, Desiree, tu sei l'unica persona al mondo che mi possa capire. Vedi, io non sono in fondo che la figlia del negoziante di Sete Clary di Marsiglia. Io non posso. Sciolsi le braccia di lei dal mio collo. Devi farti coraggio, Giulia. Fa vedere quello che veramente sei. Fallo vedere a Parigi. Fallo vedere a tutta la Francia. «E chi sono io?» mormorò Giulia con le labbra tremanti. La figlia del negoziante di sete François Clary, dissi io con forza. Non dimenticarlo, Giulia Clary. Alta la testa, su, non vergognarti. Giulia si alzò ed io la condussi nella mia camera da letto. Le piume di struzzo sui suoi capelli erano storte e il suo naso era rosso di pianto. Assolutamente priva di volontà, si lasciò accomodare da me l'acconciatura, applicare il rossetto e passare sulla faccia il piumino della cipria. Ad un tratto mi venne da ridere forte. «Giulia», le dissi ridendo, «non mi stupisce affatto che tu ti senta stanca e malandata. Le dame delle antiche stirpi patrizie sono sempre molto delicate e la principessa Giulia dell'aristocratica casa dei Bonaparte è naturalmente meno robusta della cittadina Bernadotte. Tu commetti un grande errore, Desiree, a non prendere sul serio Napoleone», disse Giulia. «Tu dimentichi che io sono stata la primissima tra tutte le persone di questo mondo che lo abbia veramente preso sul serio», dissi io. «Ma adesso dobbiamo affrettarci. Mentre andiamo agli invalidi vorrei anche vedere il corteo dei membri del Senato». Gli agenti di polizia dettero il libero ingresso a Palazzo Lussemburgo alla vettura di Giulia e ivi assistemmo alla solenne proclamazione di Napoleone a imperatore dei francesi. Alla testa del corteo cavalcava un battaglione di dragoni, poi a piedi e sudati seguivano 12 consiglieri municipali. Non era un piacere per quei signori con la pancetta attraversare tutta Parigi a passo di parata. Dietro ad essi spuntarono i due prefetti in tenuta di gala e poi, preannunciato dalle sonore risate degli spettatori, il vecchio Fontan, il presidente del Senato, a cavallo. Avevano incollato Fontan su di un baio mansueto come un agnello, condotto a mano da un palafreniere. Ciò nonostante, sembrava dovesse cascar giù da cavallo. Teneva nella sinistra un rotolo di pergamena e con la destra si aggrappava disperatamente all'arcione della sella. Marciavano dietro di lui in fila ordinata tutti i membri del Senato. Seguiva una banda musicale che suonava una vivace marcia di cavalleria, il che rendeva Fontan anche più inquieto sul suo cavallo. I più alti ufficiali del presidio militare di Parigi e 4 squadroni di cavalleria chiudevano il corteo. Davanti al Lussemburgo il corteo si fermò. Uscì fuori un trombettiere e lanciò un segnale squillante in tutte le direzioni. Il vecchio Fontan si drizzò solennemente, svolse il suo rotolo di pergamena che conteneva, come appresi in seguito dal giornale, il Senato consulto e annunciò che il Senato aveva deliberato di eleggere il primo console, generale Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi. La folla ascoltò in silenzio la voce del vecchio e quando egli ebbe terminato alcune voci isolate gridarono «Vive l'Empereur!». La banda intonò la Marsigliese e tosto il corteo si rimise in cammino. Fontan diede ancora lettura del suo proclama sulla Place du Corps Législatif, sulla Place Vendôme, sulla Place du Carrousel e davanti al municipio. Giulia ed io dicemmo al cocchiere che ci portasse il più rapidamente possibile al Dôme des Invalides, perché sarebbe stato uno scandalo inaudito se non ci fossimo trovate puntualmente laggiù. Fummo condotte nella galleria riservata all'imperatrice, alle dame della famiglia imperiale e alle mogli dei marescialli. E arrivammo proprio all'ultimo momento. Giulia sedette in fretta al suo posto a sinistra di Giuseppina. Io fui assegnata alla seconda fila e mi slogavo il collo per poter vedere attraverso l'acconciatura di penne di struzzo di Giulia e i riccioli infantili di Giuseppina, pettinati in su e intrecciati con fili di perle. Di sotto mareggiava un esercito di uniformi. Nei primi banchi sedevano 700 ufficiali pensionati in vecchie divise consunte, fregiati di decorazioni e di nastri sbiaditi. Stretti alle loro spalle, esili e come congelati, i 200 allievi della scuola politecnica. Davanti ai banchi della chiesa erano state collocate 18 poltrone dorate. Qui era tutto un balenare d'oro e d'azzurro. I marescialli. Mentre gli ex ufficiali e i futuri tecnici quasi non osavano fiatare, i marescialli sembravano conversare lietamente. Vidi che Giambattista discorreva animatamente con Massena e il biondo Junot alzò addirittura la testa verso di noi e per poco non fece un cenno di saluto a sua moglie. Allora Giuseppina chiuse di colpo il ventaglio e se lo tenne davanti al viso per fargli capire che si comportava in maniera inconcepibile. A un tratto ammutolirono anche i marescialli. Il cardinale era comparso davanti all'altare, si era inginocchiato e pregava in silenzio. Nello stesso momento udimmo di fuori squilli di tromba e rumoreggiare di innumerevoli voci. «Vive l'Empereur! Vive l'Empereur!» Il cardinale si alzò e incedette lento, seguito da 10 alti prelati, verso il portale. E lì egli ricevette l'imperatore dei francesi. Napoleone era accompagnato da Giuseppe e Luigi e dai suoi ministri. I due principi indossavano dei costumi curiosi. Nei loro farsetti di velluto granata, con le larghe brache serrate al ginocchio e le calze di seta bianca, sembravano, ecco, erano proprio come degli attori di una rappresentazione del Théâtre Français in veste di lacchè. La processione dei dignitari ecclesiastici e civili che ora avanzava verso l'altare sfavillava di tutti i colori dell'arcobaleno. In testa camminavano Napoleone e il cardinale. Napoleone, una sagoma grigio scura, quasi opaca tra tutto quello splendore. «È pazzo! Si è messo addosso un uniforme di colonnello senza decorazioni!» sussurrò Carolina agitata. Ella sedeva accanto alla principessa Ortensia. Ortensia le cacciò uno dei suoi ossuti gomiti nel fianco e sibilò «Shh!». Lentamente Napoleone salì i 3 gradini che portavano al trono dorato a sinistra dell'altare. Suppongo che fosse un trono perché, in verità, di veri troni non ne ho mai veduti. Là egli sedette, piccola solitaria figura chiusa entro un uniforme da campo di colonnello. Aguzzai più che potei lo sguardo per ben distinguere l'emblema sull'alto schienale della poltrona dorata. Era una N, una grande N, circondata da una corona d'alloro. Solo quando il fruscio di tutte le gonne di seta intorno a me annunciò che dovevamo inginocchiarci, mi accorsi che il cardinale aveva già incominciato da un pezzo a dire la messa. Napoleone si era alzato in piedi e aveva sceso 2 gradini. «Si è rifiutato di confessarsi, per quanto lo zio Fesce abbia cercato di convincerlo», sussurrò Carolina all'orecchio di Paulette e Ortensia sibilò «Shh!». Giuseppina teneva le mani giunte davanti alla faccia. Sembrava che pregasse disperatamente. Lo zio Fesch, questo tondo abatino che durante la rivoluzione aveva preferito fare il commesso viaggiatore e aveva pregato Stefano di dargli un posto nella ditta Clary, era stato restituito da un pezzo alla carriera ecclesiastica, dal giorno in cui le truppe francesi erano entrate in Roma. Il generale Bonaparte aveva dettato le sue condizioni di pace al Vaticano, gli era stato assicurato il cappello cardinalizio. E adesso lo zio Fesch, in porpora di cardinale, sollevava lo stensorio dorato. Si erano inginocchiati i marescialli, si erano inginocchiati gli ufficiali pensionati che nel momento del pericolo alla testa di contadini, di operai, di pescatori, di impiegati di banca e di reclute avevano difeso i confini della Repubblica. Se erano inginocchiati i giovani allievi della scuola politecnica. Si era inginocchiata Giuseppina, prima imperatrice dei francesi, e accanto a lei l'intera famiglia, Bonaparte. Si erano inginocchiati gli alti prelati, ma Napoleone stava in piedi sul primo gradino del trono e curvava il capo in deferente attesa. Le ultime note dell'organo si spensero. Come una ventata lieve trascorse un profondo respiro sotto la cupola. Poi migliaia di uomini trattennero il fiato. Napoleone aveva tratto dalla tasca interna un foglio e incominciò a parlare, ma non spiegò neppure il foglio. Parlava sicuro, senza sforzo, e la sua voce sembrava limpida e metallica nello spazio. «Ha preso lezioni di recitazione da un attore», sussurrò Carolina. «No, da un'attrice!» ridacchiò Paulette. «Da Mademoiselle Georges!» «Shh!» sibilò Ortensia. Mentre pronunciava le ultime frasi, Napoleone era sceso dal primo gradino del suo trono. Si accostò di più all'altare e alzò la destra per giurare. E infine, voi giurate di conservare con tutte le vostre forze la libertà e l'uguaglianza, questi principi sui quali si fondano tutte le nostre istituzioni, lo giurate? Tutte le mani si alzarono di colpo, si alzò la mia mano, il grido di un solo unico giuramento crebbe, risuonò sotto la cupola e si spense, echeggiando. E incominciò il Te Deum. Lentamente Napoleone fece ritorno al suo trono, vi sedette e più non distolse lo sguardo dalla moltitudine raccolta. L'organo rombava. Accompagnato dai suoi 18 marescialli sfavillanti d'oro, Napoleone lasciò gli invalidi, piccola macchia grigio-verde tra tanto splendore. Davanti alla chiesa montò su di un cavallo bianco e cavalcò, tornando alle Tuileries, alla testa di tutti gli ufficiali della guardia. La folla del popolo esultava. Una donna dagli occhi sbarrati gli porse un lattante e gridò «Benedicilo, benedicilo!» Giambattista mi aspettava presso lo sportello della nostra carrozza. Durante il ritorno io dissi «Tu eri seduto in prima fila e hai visto tutto distintamente. Che faccia aveva mentre se ne stava così immobile sul trono?» Sorrideva, ma con la bocca, non con gli occhi. E poiché non diceva altro, ma continuava a tenere gli occhi fissi, in silenzio domandai «A che cosa pensi, Giambattista?» Al colletto della mia uniforme di maresciallo. L'altezza regolamentare è intollerabile, per di più il colletto è troppo stretto e mi dà enormemente fastidio. Considerai lo sfarzo dell'uniforme. Il panciotto di raso bianco e la tunica blu scura sono interamente ricamati a foglie di quercia con filo d'oro zecchino. Il mantello di seta azzurra è foderato di raso bianco e fregiato di passamani dorati. Enormi foglie di quercia dorate ne adornano l'orlo. Il tuo ex fidanzato fa i suoi comodi, mentre relegano gli altri in foglie di quercia dorate, lui indossa l'uniforme da campagna di colonnello, disse Giambattista. C'era dell'amarezza in queste sue parole. Quando scendemmo di carrozza, davanti a casa nostra, alcuni giovani in abiti dimessi si serrarono intorno a noi. «Viva Bernadotte!» gridarono. «Viva Bernadotte!» Quando fummo soli, a cena, seduti l'uno di fronte all'altra, gli disse, quasi di sfuggita, «Ti potrà interessare questo, che l'imperatore ha dato al ministro di polizia l'incarico confidenziale di sorvegliare attentamente non soltanto la vita privata, ma anche la privata corrispondenza dei suoi marescialli». «Giulia mi ha detto che lui, quest'inverno, si farà incoronare con tutte le regole», dissi, dopo aver meditato su quanto avevo udito. Giambattista scoppiò in una risata sonora. «E da chi? Si farà forse mettere la corona in capo da suo zio Fesch a Notre Dame, con accompagnamento di organo?» «No, lo incoronerà il Papa». Giambattista posò il bicchiere che aveva in mano così bruscamente che ne rovesciò il contenuto sulla tovaglia. «Ma questa poi!» E crollò il capo. «Desire, lo ritengo impossibile. Certo, lui non vorrà andare in pellegrinaggio a Roma per farsi incoronare». «Oh no, lui vuole che il Papa venga a Parigi per questo». Da principio non riuscivo a capire perché Giambattista trovasse questa notizia tanto incredibile. Ma lui spiegò che il Papa non esce mai dal Vaticano per procedere ad una incoronazione in un paese straniero. Non sono molto ferrato in fatto di storia, ma credo che ciò non sia mai accaduto, soggiunse. Io sparsi in fretta del sale sulle macchie di vino rosso sperando che così si potranno lavare più facilmente. «Giuseppe dice che Napoleone costringerà il Papa a venire qui», dissi. «Dio sa che non sono un figlio devoto di Santa Romana Chiesa. Sarebbe chiedere troppo ad un antico sergente della rivoluzione, ma non trovo che sia bello da parte sua costringere quel povero vecchio a rotolare su cattive strade da Roma a Parigi», disse Giambattista. «Oh, devono anche aver trovato una certa antica corona con uno scettro e un globo imperiale e tutti noi dovremo partecipare alla cerimonia. Giuseppe e Luigi pensano di farsi fare dei costumi di corte di stile spagnolo», lo informai. «Soprattutto Luigi, dai piedi piatti, ci tiene ad apparire agile e slanciato». Giambattista guardò fisso davanti a sé, poi disse a bruciapelo: «Lo pregherò di affidarmi un incarico amministrativo indipendente, possibilmente molto lontano da Parigi. Vorrei veramente avere l'intera responsabilità di un territorio, non solo militarmente, capisci? Ho studiato e creato un tipo nuovo di sistema delle concessioni e delle leggi doganali e credo che saprei davvero elevare il benessere di un paese. Oh, ma allora dovresti andare via di nuovo, obiettai io disperata. Via dovrò andarmene in qualunque caso. Bonaparte procurerà alla Repubblica Francese nuovi trattati di pace, ma non certo una pace duratura. E noi marescialli dovremo cavalcare con le nostre armate attraverso tutta l'Europa fino a che... Fece una pausa. Fino a che avremo vinto tanto da morirne, perché Bonaparte è indubbiamente un dannatissimo e meraviglioso soldato. Mentre diceva le ultime parole, Giambattista aveva incominciato ad allentarsi il colletto. Lo guardai. Ti è troppo stretta l'uniforme di maresciallo? Proprio così, ragazzina mia. L'uniforme di maresciallo mi è troppo stretta e perciò il sergente Bernadotte lascerà presto Parigi. Vieni, finisci di bere e andiamo a coricarci. Parigi, 9 brumaio dell'anno 12, secondo il calendario della Chiesa, 30 novembre 1804. Il Papa è venuto davvero a Parigi per incoronare Napoleone e Giuseppina. E Giambattista mi ha fatto una scenata terribile perché improvvisamente è diventato geloso di lui, di Napoleone, non del Papa. Oggi nel pomeriggio è stata fatta alle Tuileries la prova del corteo dell'incoronazione. Ne ho ancora la testa tutta intronata e per di più sono proprio disperata per questa gelosia di Giambattista. Così non ho potuto addormentarmi e me ne sto seduta al grande scrittoio di mio marito con tutti i volumi e le carte geografiche e scrivo nel mio diario. Giambattista è uscito e non so dove sia andato. Fra 2 giorni ci sarà l'incoronazione e sono mesi che a Parigi non si parla d'altro. Dovrà essere l'avvenimento più splendido di tutti i tempi, così dice Napoleone. E il Papa è stato costretto a venire a Parigi perché tutto il mondo, e in particolare i fautori dei Borboni, possano vedere che Napoleone sarà veramente incoronato, consacrato e unto a Notre-Dame. Gli antichi grandi della corte di Versailles, che sono tutti cattolici osservantissimi, avevano fatto in segreto scommesse se il Papa sarebbe venuto o no a Parigi. I più credevano assurda la cosa. E chi invece pochi giorni fa, con un seguito di 6 cardinali, 4 arcivescovi, 6 prelati e un esercito di archiatri, di segretari, di soldati della guardia svizzera e di lacchè, è partito per Parigi? Proprio Pio VII. I membri della famiglia imperiale fanno da alcune settimane a Fontainebleau e alle Tuilerie alternativamente le prove delle solenni cerimonie per l'incoronazione. Quest'oggi nel pomeriggio anche noi, le mogli dei 18 marescialli, siamo state convocate alle Tuilerie. Si doveva studiare il corteo per l'incoronazione dell'imperatrice. Quando arrivai alle Tuilerie con Laura Junot e Madame Berthier, fummo condotte nel salotto bianco di Giuseppina. Lì si erano raccolti quasi tutti i componenti della famiglia Bonaparte e litigavano. Il responsabile della direzione dei festeggiamenti per l'incoronazione è Giuseppe, ma i particolari devono essere stabiliti dal maestro delle cerimonie Despreaux, che per questo percepisce una paga di 2.400 franchi. Despreaux è dunque il regista e al suo fianco sta quel terribile Monsieur Montel, dal quale a suo tempo io ho imparato il buon contegno. Noi marescialle ci rintanammo tutte insieme in un angolo e cercavamo di capire perché quelli bisticciassero. Ma è espresso desiderio di Sua Maestà! Urlava disperato Despreaux. Ebbene, anche se mi scaccerà dalla Francia come il povero Luciano, questo non lo farò! Strillava Elisa Bacciocchi. Reggere lo strascico, mi fate ridere! Reggere la coda, disse indignata Paulette. Ma anche Giulia e Ortensia devono reggere lo strascico e non si rifiutano, pur essendo entrambe altezze imperiali, diceva Giuseppe cercando di mettere pace. Le ciocche dei suoi capelli già rade e sempre ben lisciate all'indietro erano in pieno disordine. Le altezze imperiali? Sibilò Carolina. E perché noi, sorelle dell'imperatore, non siamo state nominate altezze? Si può sapere? Forse che valiamo meno di Giulia, la figlia del mercante di sete e... Sentii che diventavo rossa per la rabbia. E di Ortensia, la figlia di questa Carolina cercava un'invettiva per Sua Maestà l'imperatrice Giuseppina. Signore, le scongiuro, gemette De Pro. Si tratta del manto dell'incoronazione con l'enorme strascico, mi sussurrò Laura Junot. L'imperatore vuole che sia sorretto dalle sue sorelle e dalle principesse Giulia e Ortensia. Dunque, possiamo incominciare la prova? Da una porta laterale era entrata Giuseppina, acconciata in maniera stranissima. Alle sue spalle erano fissati due lenzuoli cuciti insieme, i quali dovevano rappresentare il manto dell'incoronazione, che evidentemente non era ancora pronto. Ci sprofondammo in un inchino di corte.